Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Dovrebbe arrivare a minuti l'attivazione del cosiddetto articolo 50, quello con il quale la Gran Bretagna avvia l'uscita dall'Unione Europea. È il momento di essere uniti, dice la Premier May. Gasdotto TAP, proseguono i lavori, la polizia allontana i manifestanti, un uomo colto da malore, 15 camion già partiti questa mattina con gli ulivi. Sono solo un vecchio fascista degli anni 70, così Massimo Carminati nel processo Mafia Capitale, mi offendo quando dicono che sono dei servizi. Pestaggio di Alatri, in isolamento i due fermati, ci sono rischi, rinuncia illegale di uno dei due, quelli di altri indagati, minacciati e malmenati. Governo alla prova della fiducia sul decreto immigrazione, via libera intanto alle nuove norme per i minori non accompagnati. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e quella di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta anche video, e anche là potete scrivere e commentare se credete e volete. In apertura la Brexit, dunque oggi si parte in diretta da Londra, Giorgia Scaturro. Giorgia, buongiorno, vai. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Ebbene, in questi momenti il primo ministro Theresa May è a Westminster a riportare ai comuni che è fatta ufficialmente tra pochi minuti alle 13:20 la lettera che ieri è stata scritta, una lettera epocale diciamo, è stata firmata per innescare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, sarà consegnata dall'ambasciatore britannico a Bruxelles Sir Tom Barrow direttamente al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Il contenuto di 4 pagine di lettera sarà pubblicato a breve, ma come sappiamo si può riassumere in un bye bye lungo 2 anni all'Unione Europea dopo 44 anni di relazione a luci ed ombre. E come tutti i divorzi che si rispettano, l'umore qui in Gran Bretagna è un mix di tristezza per lo strappo da una unione storica per il 36% dei britannici, ma soprattutto di liberazione, dobbiamo dire, perché sia che si faccia parte del 52% che al referendum di giugno aveva votato Leave, che del 48% che voleva restare nell'Unione, si è tutti piuttosto stanchi delle profonde incertezze sul futuro di un mercato unico, immigrazione per esempio, i grandi temi caldi di questa Brexit. Una Brexit che oggi rende felice il 50% della popolazione. E finalmente, dopo 9 mesi di snervante attesa, da oggi pressioni ancora più forti sulla May, che ora dovrà tirare fuori dal pasticcio della Brexit il migliore accordo possibile per ogni singolo abitante della Gran Bretagna, secondo le stesse parole che sta in questi minuti rivolgendo ai comuni. Il primo ministro britannico prometterà poi di considerare e condurre le negoziazioni rappresentando anche i 3 milioni di cittadini europei che sono nel limbo. Resterà da vedere come, sono negoziazioni con gli altri 27 stati europei che dovrebbero chiudersi a ottobre del 2018, ma parliamo di una sfida mai tentata prima da nessun paese dell'Unione Europea, dunque i contraccolpi saranno inevitabili tra tutti i costi di questo addio. E per ora vi restituisco la linea. E grazie dunque a Giorgia Scaturro da Londra per questo aggiornamento, e vi terremo aggiornati appena avremo notizie su quando scatterà ufficialmente il processo, questo processo. Intanto l'antitrust europeo, notizia di questa mattina, ha deciso di bloccare la fusione tra il London Stock Exchange e la Deutsche Börse. Questa avrebbe ridotto in modo significativo la concorrenza e creato un monopolio di fatto nell'area cruciale degli strumenti a reddito fisso, ha dichiarato la commissaria europea alla concorrenza Margaret Vestager, la quale ha negato che ci siano collegamenti appunto con la Brexit. Veniamo all'Italia e veniamo alle vicende del gasdotto TAP, ai lavori che vanno avanti e alle tensioni che proseguono. Un punto con Domenico Palmiotti, un punto su quel che sta avvenendo a Melendugno. Domenico, buongiorno. Buongiorno, i lavori del gasdotto, dell'espianto degli ulivi per la costruzione del microtunnel stanno andando avanti, sono ripresi questa mattina molto presto, in un clima che resta teso, difficile, però stanno proseguendo. Sono già usciti dal cantiere di TAP 15 camion, ciascun camion trasporta un ulivo, e l'intenzione della società è quello di accelerare il più possibile l'espianto degli ulivi, tant'è che sono stati rinforzati i camion a disposizione e gli operai. Dubai. Si vuole arrivare alla fine di questa giornata a trasportare 70 ulivi. Si tratta di un espianto temporaneo, come abbiamo già detto ieri, e questi ulivi vengono reimpiantati in una zona poco distante Masseria del Capitano. Le tensioni anche oggi, i manifestanti sono meno, però la zona è comunque presidiata massicciamente dalle forze di polizia, che hanno allontanato quanti hanno cercato di impedire il transito dei mezzi. Poco tempo fa sono volate anche delle pietre, sono state lanciate delle pietre all'interno dell'area di cantiere. Delle persone si sono sentite male questa mattina, appunto nel clima concitato che si era determinato. In mattinata poi altri due episodi: dei chiodi sono stati trovati sulle strade di accesso al cantiere per ostacolare il transito dei mezzi, chiodi rimossi dalla polizia, e qualche ora prima, sempre davanti al cantiere, era stata fatta esplodere una bomba carta. Rimane infine altissima la polemica politica. Emiliano sbarra il passo all'approdo del gasdotto a Melendugno, dice: non vogliamo che 20 miliardi di metri cubi passino sotto la schiena dei turisti e dei bagnanti. Gli ribatte il ministro dell'ambiente Galletti, dicendo che l'opera è autorizzata e risponde a tutte le migliori regole ambientali. Vi restituisco la linea. Grazie a Domenico Palmiotti, che citava il ministro dell'ambiente Galletti, che sarà più avanti ospite di Effetto Giorno alle 13:15, proprio per parlare di quello che succede a Melendugno. Veniamo al processo Mafia Capitale, perché questa è stata la giornata nella quale ha parlato Massimo Carminati. Raffaella Calandra, buongiorno. Cosa ha detto Carminati? Eh sì, dopo 40 anni di scandali e inchieste, per la prima volta Massimo Carminati parla, e parla presentandosi come un vecchio fascista degli anni 70, un richiamo al passato da parte dell'ex terrorista Nasr, che introduce la sua versione sul processo al mondo di mezzo, un processo che sarebbe ridicolo senza di me, attacca l'uomo accusato di essere il protagonista della mafia originale e originaria della capitale, secondo la procura. Racconta dei primi giorni in cui era pedinato: stavo finendo l'affidamento ed ero sereno, ho sempre vissuto sotto controllo delle forze dell'ordine, e poi, anche se ho un occhio solo, dice, ci vedo bene. A proposito poi di Salvatore Buzzi, l'ex RAS delle cooperative, dice di non condividere la sua scelta processuale, si è tagliato i ponti col passato e nega fermamente di aver lavorato con i servizi segreti. Mi ha difeso Minniti, ma io sono il pregiudicato Carminati e sono accusato per questo di tutte le nefandezze, aggiunge. Sta ancora parlando l'ex terrorista nero. Dei sue parole nell'aula di un tribunale dopo 40 anni di fitti scandali sono di sicuro un passaggio importante del processo Mafia Capitale. Ed è tutto. E grazie dunque a Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Siamo alla politica con innanzitutto le notizie che arrivano per quanto riguarda le amministrative. Ci sono elezioni, come sapete, quest'anno che riguardano 1021 comuni, tra cui 4 capoluoghi: Palermo, Genova, Catanzaro e L'Aquila. Si voterà, si è appreso oggi domenica 11 giugno, e l'eventuale ballottaggio si svolgerà il 25 giugno. Sono notizie arrivate questa mattina dal Viminale. Sempre per la politica, oggi è una giornata nella quale si parla parecchio di migranti. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito, perché arriva la fiducia sul nuovo provvedimento sull'immigrazione. Elisabetta, buongiorno. Sì, sono due fronti, Simone, uno al Senato e uno alla Camera sull'immigrazione. L'Assemblea di Palazzo Madama approva il disegno di legge di conversione del decreto sui migranti, per il quale il governo aveva chiesto il voto di fiducia. Con 145 sì, 107 no, un astenuto, il provvedimento torna ora alla Camera. Prevede il taglio dei tempi di esame per le domande di asilo, la possibilità per i richiedenti di svolgere lavori di pubblica utilità, gratuiti e volontari, la creazione di nuovi centri permanenti per il rimpatrio. Patrio, 19 milioni di euro per garantire l'esecuzione delle espulsioni. A votare no Movimento 5 Stelle e Lega. La Lega perché dice che il piano non prevede restrizioni all'ingresso, il Movimento 5 Stelle perché parla di decreto sterile e inefficace. Altro capitolo invece è quello della Camera, che approva in via definitiva la norma sui minori migranti. Una larga maggioranza, 375 voti a favore, 13 contrari, solo la Lega Lega e 41 astenuti, serve a proteggere i ragazzi che arrivano senza famiglia nel nostro paese. Avranno gli stessi diritti dei coetanei europei e non potranno essere respinti. Per Barbara Pollastrini, l'Italia apre pista in Europa e denuncia Pollastrini. Molti di loro scompaiono, sono missing, finiscono nel girone terribile di sfruttamento, prostituzione, tratta, organizzazioni criminali. Questo provvedimento serve proprio a proteggere i ragazzi, come dicevamo. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, andiamo alla cronaca italiana, iniziando dalle vicende di Alatri, il punto di giornata per il pestaggio che ha portato alla morte di Emanuele. Lo facciamo con Chiara Piselli. Chiara, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, ci sono delle novità dell'ultima ora. I due presunti killer di Emanuele Morganti, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, sono stati posti in regime di isolamento nel carcere romano di Regina Coeli per il rischio di ritorsioni e minacce nei confronti dei due ragazzi da parte di altri detenuti. E poi si apprende anche che l'avvocato di Castagnacci, Toni Ceccarelli, ha deciso di rinunciare al suo incarico, una decisione autonoma, dice, presa senza alcuna pressione. I due killer, presunti killer, ancora lo ricordiamo, sono due fratellastri di 27 e 20 anni, rintracciati e fermati a Roma, dove erano fuggiti dopo l'aggressione, e contro di loro pende l'accusa di omicidio volontario. Intanto ci sono le voci di decine di testimoni contro altri, la testimonianza di Morganti, 20 anni. Con Chiara Piselli, come sentite, evidentemente c'è qualche problema tecnico, la linea non funziona, tra l'altro stiamo cercando di contattare, anzi avevamo in linea pochi istanti fa un avvocato di due indagati che ha subito una sorta di raid punitivo nel suo studio poco fa, vediamo se riusciamo a ricontattarlo e se riusciremo a ricontattarlo nel corso della trasmissione. Intanto andiamo alla manovra che si compone di tanti elementi e che si potrà giovare, per così dire, anche dei dati diffusi questa mattina che riguardano l'evasione fiscale e contributiva. Il servizio. Ogni anno in Italia l'evasione fiscale e contributiva si aggira in media sui 110 miliardi di euro. A snocciolare stime e dati davanti alla Commissione parlamentare bicamerale è il presidente della Commissione per la relazione annuale sull'evasione fiscale, Enrico Giovannini. Un fenomeno in crescita, visto che nel 2014, secondo gli ultimi dati disponibili, ha spiegato Giovannini, il tax gap, ossia la differenza tra le imposte che si dovrebbero pagare e quelle effettivamente pagate, si è allargato a 111,6 miliardi dai 108 del 2012. E proprio dalla lotta all'evasione dovrebbe invece arrivare una parte delle risorse per aiutare la crescita. Obiettivo della manovra di primavera da 3,4 miliardi al vaglio del governo e della strategia del documento di economia e finanza in preparazione. Il decreto correttivo dei conti pubblici, ha spiegato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, non deprimerà ma incoraggerà la crescita e spingerà l'acceleratore soprattutto sul sostegno alle zone terremotate, con la costituzione di un fondo per la ricostruzione da almeno 1 miliardo e incentivi alle imprese per convincerle a non abbandonare le zone terremotate. Intanto migliora a marzo, secondo l'Istat, la fiducia di imprese e consumatori, con l'indice composito della fiducia delle imprese ai massimi da gennaio 2016. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Ci occupiamo di ambiente adesso. Donald Trump ha annullato la maggior parte delle iniziative adottate dall'amministrazione Obama sul cambiamento climatico all'interno del Clean Power Plan, e ne parleremo tra un attimo. Però nel frattempo siamo riusciti a contattare Giampiero Vellucci, che è un avvocato e il legale che sta rappresentando due buttafuori residenti a Ceccano che venerdì si trovavano all'interno del pub Miro, il luogo nel quale è stato ucciso Emanuele, o meglio fuori dal quale è stato ucciso Emanuele dopo un brutale pestaggio. Vellucci, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, anche se non è un buongiorno. Appunto, glielo stavo dicendo, avete subito una sorta di raid all'interno del suo studio legale, capito? Guardi, io sono 30 anni che faccio questa attività, mi sono laureato a meno di 24 anni con 110 lode. Mi sono fatto da solo, mi sono costruito una carriera con la fatica, con gli sforzi. Mi accade una cosa che obiettivamente non mi ha colpito più di tanto, anche se io devo pensare alle persone che stanno attorno a me, alle dipendenti, agli altri avvocati del mio studio, alla mia famiglia, mia moglie e mia figlia. È stata una intimidazione che si inserisce in un clima che non poteva cosa, non essere... I fatti, Vellucci, che cosa dove è nato l'omicidio. Cosa è successo esattamente? Ma no, ma sono entrate delle persone, amici, parenti di questo povero ragazzo al quale va tutta il mio cordoglio massimo, totale, assoluto. Io tra l'altro difendo soltanto due buttafuori, cioè persone che nell'occasione non hanno avuto un ruolo diretto nell'omicidio, eppure ormai il clima è quello che nessuno ha il diritto, e io dico dovere, facendo gli avvocati, di difendere non soltanto gli esecutori materiali, che non sono divisi da me, ma addirittura neanche quelli che hanno altro tipo di incolpazioni. Vellucci, queste persone sono entrate... Queste persone sono entrate, Vellucci, e che cosa hanno fatto? No, ma sono entrate perché uno, io l'ho assistito credo 20 anni fa, un altro mi conosceva, un altro mi ha detto Giampiè come stai? Poi da lì il discorso è scivolato sull'argomento che a loro stava a cuore e poi è successo quello che è successo. Cioè che cosa è successo? Minacce? Guardi, io vorrei anche un po' minimizzare. Cioè non sì. è che sì, però lo dobbiamo sapere, cioè dal punto di vista della cronaca... Hanno lanciato delle minacce e delle offese dicendo che io dovevo lasciare la difesa di queste due persone. Stop. Questo è successo. Altrimenti? Con delle allusioni. Beh, con delle allusioni che insomma io faccio questo mestiere da anni, quindi non è che non capisco l'espressione, il significato di un'espressione. Cioè, quello che è grave non che... perché io non sono rimasto scalfito o colpito più di tanto, ma il problema è che è il clima di intimidazione. Del quale clima questo atteggiamento è figlio? Cioè, ci sono persone che hanno, si sentono nel diritto, in quanto parenti, amici, conoscenti, e ne è la prova anche quello che sta succedendo sui social network, praticamente di poter imporre determinati comportamenti, che mi sembra una cosa assurda, perché insomma uno fa l'avvocato perché è tenuto, è dovuto, ha diritto a difendere delle persone, ma non essere costretto a non farlo, o a farlo solo in favore delle persone che dicono di persone, secondo quello che dicono altre persone, estranee alla vicenda. Che le risulta, Vellucci, che il suo sia il solo caso? No, purtroppo no. Ci sono giornalisti, ci sono altri avvocati, un altro avvocato ha rinunciato stamattina, altri due non hanno preso il caso, un altro si è dileguato. Cioè, stiamo andando incontro ad una guerra di tutti contro tutti, che alla fine è partita da un fatto gravissimo e sta colpendo persone, ma lo ripeto, io ho una mia filosofia di vita che mi ha insegnato mio padre, se stai a posto con la coscienza non devi temere nulla. Io sto difendendo persone che fortunatamente per me non hanno avuto il ruolo di esecutori materiali. Non vedo che cosa ci sia di scandaloso, di immorale, di anomalo, di ingiusto per poter ricevere una spedizione come quella di ieri, dell'altro ieri. La ringrazio, grazie a Giampiero Vellucci per essere stato con noi, avvocato appunto. Adesso ci prendiamo una pausa, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo e parleremo, andremo a Melendugno, parleremo con il ministro Galletti del gasdotto TAP. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della Brexit, siamo in attesa dell'attivazione del cosiddetto articolo 50, abbiamo parlato del gasdotto TAP e ci torniamo tra un attimo. Abbiamo parlato della deposizione di Massimo Carminati durante il processo Mafia Capitale e parecchio della vicenda del pestaggio di Alatri. Come avete sentito, abbiamo ospitato un avvocato che ha subito un raid nel suo studio. Qualche ascoltatore ci scrive al 349-238-6666. Ecco cosa succede quando si invocano linciaggi e giustizia di piazza. Siamo perfettamente d'accordo. Questo è uno stato di diritto e queste cose andrebbero rispettate. E visto che parliamo di Stato di diritto, ci occupiamo di tutt'altra vicenda che ha molto a che fare con questioni legali, a quanto pare, in queste ore, oltre che con questioni di piazza. Ed è la vicenda del gasdotto TAP e del microtunnel che deve essere realizzato sotto la spiaggia di Melendugno e che sta suscitando tante proteste. La polizia è dovuta intervenire anche questa mattina a rimuovere alcuni manifestanti. Sono partiti questa mattina una quindicina di camion per l'asportazione degli ulivi, che lo ricordiamo sempre agli ascoltatori perché poi sembra che sia uno scempio ambientale, in realtà poi gli ulivi vengono reimpiantati. Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente, bentornato ai nostri microfoni, salve. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dice questa mattina, cioè, c'è stato un, come dire, vi siete parlati a distanza col presidente della regione Michele Emiliano, il quale dice vabbè sì, ci sarà pur l'autorizzazione per l'espianto degli ulivi, ma non c'è quella per il microtunnel, manca il via. Che cosa dice lei? La valutazione di impatto ambientale è stata licenziata dalla commissione scientifica tecnica terza pure al ministero, cioè indipendente, già da tempo. È chiaro che molti passaggi sono soggetti a prescrizioni, quindi si va avanti mano che le prescrizioni vengono esaudite, diciamo, certo. No? Viene preso atto che le prescrizioni sono superate e quindi si va avanti. Ma tengo a precisare un'altra cosa, che la via non è una procedura di autorizzazione. L'autorizzazione è un'altra cosa. Ad esempio, l'espianto degli ulivi è stato autorizzato da un ufficio fitosanitario della provincia in base alla via favorevole e alla realizzazione delle condizioni. Quindi si fa molto confusione fra via e autorizzazione. Ministro, come giudica queste proteste? Ma io le dico, sono rimasto un po' sorpreso per l'entità dei lavori di cui stiamo parlando. Io sono ministro dell'ambiente, si figuri se non ho a cuore gli ulivi della Puglia, che è uno dei patrimoni più importanti che abbiamo in Italia. Abbiamo in quella regione 50 milioni di ulivi. Io sono amareggiato molto dal fatto che ogni anno 4.000 ulivi vengono tagliati in maniera fraudolenta per esportare il legname, no? Questo è una cosa veramente brutta. Ma qui stiamo parlando di 233 ulivi che vengono espiantati e poi reimpiantati nello stesso posto. Quindi da un punto di vista ambientale non c'è nessuno scempio. E parliamo anche di un microtunnel, cioè parliamo di un tubo del gas. Sa quanti chilometri di tubi di gas abbiamo in Italia? Sì, migliaia. Parecchi. Senta, ministro, qualche ascoltatore ci chiede e dice giustamente, ma perché non si poteva fare in un altro posto? Si poteva fare, per esempio, un po' più a nord, come sostiene il presidente della regione Emiliano, o ma no? Io invito tutti, perché poi no, capisco che chiedo un sacrificio grande, ma se uno ha proprio la curiosità, dovrebbe, secondo me, leggersi la via, la valutazione di impatto ambientale. Non è che noi abbiamo scelto quel posto così. Tanto c'era un proponente, quindi uno che ha fatto una domanda per avere la valutazione di impatto ambientale prima e l'autorizzazione dopo. Noi però abbiamo chiesto 14 soluzioni alternative con 5 siti differenti e li abbiamo vagliati tutti. Sì. Questo Brindisi, Brindisi, mi scusi che... Galletti, Brindisi compresa, come chiedono sempre gli ascoltatori? Brindisi compresa? Sì, abbiamo valutato vari siti, fra cui penso ci sia anche Brindisi. Adesso se vuole faccio una verifica dei 5 siti che a memoria sinceramente non me li ricordo. Però siamo arrivati alla... sì, passava anche da Brindisi, guardi. Sì, ok, perfetto. Uno. Quindi verifica rapida. Fra l'altro, voglio dire, quello è quello che presentava minore impatto ambientale. Non è stato scelto a caso, no? Se lei va a vedere, la descrizione di quel sito ci mostra come lì ci fossero più condizioni che in altre per mantenere l'impatto ambientale, per delimitare l'impatto ambientale. Quindi c'è sotto un lavoro scientifico molto forte, tecnico molto forte. Non è che da una mattina all'altra ci siamo svegliati e abbiamo scelto un sito a caso. Sì, dice Melendugno, è stata una scelta precisa, appunto, valutata su questa base. Certo, scusi. Nel territorio individuato per l'arrivo del sito, perché non è che questo si potesse fare da tutt'altra parte, sì. No? Non è che lo puoi far arrivare a Rimini, diciamo così, insomma. Esatto, diciamo, il tratto di terreno deve essere, per il gasdotto deve essere necessariamente quello, insomma, chiaramente. Ci sono state compensazioni e rapporti con la popolazione locale bastanti, secondo lei, o è mancato qualcosa da questo punto di vista? Ma la via è durata mesi e mesi, nel quale c'è stata un'interrelazione noi con la regione e la regione con i sindaci. Quindi penso che ci sia stato un confronto molto forte su questo. Poi i fatti ci dicono che forse non è stato sufficiente, no? Se siamo a questo punto. Brutalmente Galletti, è pura battaglia politica quella di Emiliano o no, secondo lei? Mi auguro di no, perché sarebbe una strumentalizzazione forte. Oltretutto qui parliamo di una scelta energetica nazionale che da un punto di vista ambientale è molto forte, perché il gas ci rende indipendenti dalle fonti più inquinanti, dal petrolio e dal carbone. Quindi anche da un punto di vista ambientale questa scelta ha tutte le caratteristiche favorevoli. Allora fare battaglia politica su questo sarebbe davvero forte. Mi faccia dire una cosa, che si è parlato di guerra di liberazione. Mi sembra un tantino esagerato di fronte a questo, di fronte all'espianto e al reimpianto di 233 ulivi e della realizzazione di un microtunnel, paragonare questo evento alla resistenza. Mi sembra così un po' esagerato, forse un po' di strumentalizzazione politica c'è. Allora la ringrazio, grazie a Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente, per essere stato con noi, e visto che parliamo di natura, il nostro giro per l'Italia ci porta in Sicilia. In Sicilia per parlare di delfini. Perché? Perché i pescatori, la vicenda vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi e nelle ore scorse, i pescatori stanno protestando. Perché? Perché si trovano sempre di più nelle eolie con dei delfini che assaltano le loro reti. È il grande tema del rapporto tra l'uomo e le bestie, che sta crescendo progressivamente quest'anno: i cinghiali, il lupo, i gabbiani, i piccioni e adesso anche nel mare i delfini. Monica Francesca Blasi è del Filicudi Wildlife Project e si è occupata nella vita esattamente di questo, cioè di cetacei e tartarughe marine. Blasi, buongiorno, benvenuta. Salve, buongiorno. Che cosa succede? Una guerra inevitabile tra uomo e delfino? Diciamo che questo è un problema che è sempre esistito nel Mediterraneo, comunque è un problema già molto noto alla comunità scientifica, e ovviamente nelle isole Eolie si sta amplificando, proprio perché non ci tengo a dire c'è stato un aumento consistente di delfini, come sono state fatte queste dichiarazioni insomma negli ultimi giorni. Noi studiamo le due specie di delfini che vivono consistentemente nelle acque dell'arcipelago Eoliano da circa 15 anni, sì. Il tursiope, che è una specie costiera, principalmente appunto vive sotto costa, mentre la Senella striata vive nell'ambiente di acque aperte. E dai nostri studi scientifici non risulta che questi animali siano in incremento, anzi addirittura la popolazione eoliana relativa alla specie tursiope rimane residua a circa 40-50 esemplari, che tuttavia in un ambiente fortemente depauperato dalla carenza di risorse ittiche hanno incrementato le loro attività di depredazione delle reti, come Blasi, mi scusi se la interrompo, sì. E semplifico: c'è poco pesce e quindi i delfini vanno a rompere le reti dei pescatori per prendersi il pesce alle reti dei pescatori. Non solo reti, purtroppo c'è un impatto anche con altre tipologie di attrezzi da pesca, come il cianciolo, che è sempre una rete però non è un tramaglio, quindi due tipologie di rete, e poi la attrezzo totanara, e quindi ecco, è un problema molto complesso che noi stiamo cercando di affrontare in collaborazione anche con la marineria di Lipari, con i pescatori, e quindi sperimenteremo a breve dei dispositivi acustici in collaborazione appunto con alcuni pescherecci per tenere lontani i delfini. Sì, non è detto che funzionino, vanno testati, vanno sperimentati, e sicuramente non è la risoluzione un po' del come problema. Mi scusi, non vorrei essere brutale, un po' come a Roma con gli storni, cioè gli altoparlanti che trasmettono quei segnali che dovrebbero spaventare gli storni, e poi comunque se parcheggi la macchina sotto gli alberi comunque la ritrovi come era prima. Lo stesso ruolo, dovrebbero tenere lontani gli animali dagli attrezzi da pesca. Ovviamente da altri studi effettuati nel Mediterraneo ci sono risultati molto sì. anche in conflitto, possono funzionare, possono non funzionare, o a volte possono funzionare in un primo momento e poi gli animali si abituano a questo suono, secondo momento no. Sì, esattamente, particolarmente intelligenti. Blasi, guardi, io la devo interrompere, la ringrazio per il suo tempo, perché dobbiamo andare in pausa, andare a sentire cosa succede sui mercati. Qualcuno propone: risolviamo il problema alla Trump, mettiamo un muro a Gibilterra addirittura. Beh, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Certo è che un po' suona nello stesso modo, no? Ci rubano il lavoro, ci rubano il pesce, più o meno suona nello stesso modo. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, vedremo se saremo in grado di tornare a collegarci con Alatri e con un altro ospite. Di certo toccheremo il tema, come sempre, del terremoto. Siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, anche in diretta video. A tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il cammino verso la Brexit è partito, l'ambasciatore britannico all'Unione Europea Tim Barrow ha consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk la lettera di notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, quello che fa partire il divorzio di Londra da Bruxelles, la notizia di pochi istanti fa. Il gasdotto TAP, proseguono i lavori, la polizia allontana i manifestanti, un uomo colto da malore, 15 camion già partiti questa mattina con gli ulivi. Sono solo un vecchio fascista degli anni 70, così Massimo Carminati nel processo Mafia Capitale. Mi offendo quando dicono che sono dei servizi. Passaggio di Alatri, in isolamento i due fermati, ci sono rischi, rinuncia illegale di uno dei due, quelli di altri indagati, come avete sentito, minacciati e malmenati la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta qua su Radio 24, così come sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24, in questo caso diretta video, per tornare ancora a parlare della vicenda di Alatri. Tony Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno, ditemi. Allora, l'ex legale a questo punto di Mario Castagnacci, uno dei due fermati per l'omicidio di Emanuele, brutalmente picchiato, ormai lo sapete, davanti alla discoteca, e lei, Ceccarelli, ha deciso di rinunciare, dicendo che non è per paura, per quanto dei suoi colleghi abbiano subito delle intimidazioni. Come mai ha rinunciato alla difesa? Allora, guardate, innanzitutto voglio dirvi che io non ho ricevuto alcuna pressione dall'esterno. Non sono stato avvicinato da nessuno e quindi è stata una decisione esclusivamente autonoma e ponderata, che non deve essere neanche letta come attinente alle carte processuali, per carità. E io il Castagnacci lo conosco da anni, perché l'ho assistito anche in altre vicende processuali, non ultima una di venerdì mattina o venerdì ultimo scorso, perché il ragazzo ha avuto una vicenda giudiziaria ed era stato tratto in arresto, ma è cosa nota, compare su tutte le stampe. Sì, perché quindi era uscito dal carcere il giorno che poi no, è avvenuto. No, assolutamente. Lui è stato fermato la sera perché era incappato in un controllo per quanto riguarda reati di stupefacente. Sì. Il venerdì mattina è stata fatta la convalida e non sono emersi indizi di responsabilità a carico dello stesso, e quindi è stato rilasciato completamente libero. Mm-hmm. Poi il venerdì sera è successo questa vicenda, francamente ancora al vaglio della magistratura. Sì. Siamo in buone mani del procuratore De Falco, del dottor Misiti, quindi sicuramente ci sarà una giusta attività di indagine. Sì. Ponderata ed un giusto processo sui fatti. Come mai ha rinunciato lei, Ceccarelli? È una decisione autonoma e le motivazioni sono esclusivamente riservate tra me e lo stesso indagato, e al quale ho rappresentato la mia decisione ieri pomeriggio alle 16, quando ho fatto ingresso nel carcere di Regina Coeli. Quindi non c'è paura da parte sua. Assolutamente, assolutamente. Mm. Chi mi conosce sa che sono una persona razionale, non mi faccio prendere dagli eventi, assolutamente. Mm. E però, come dire, minacce nei confronti di altri suoi colleghi ci sono state. Abbiamo parlato poco fa con l'avvocato di due indagati che ha subito l'ingresso nel suo studio legale di parenti e amici della vittima, che sono venuti a dirgli, a minacciarlo, da quel che abbiamo capito, nemmeno troppo velatamente. Guardate, io il collega lo conosco benissimo, è uno degli avvocati, diciamo, in prima linea, non solo nel foro di Frosinone ma anche in tutta Italia, quindi è una decisione quella che ha assunto il collega, è ovvio, di assistere delle persone, e quindi tra l'altro sono delle persone che non risulterebbero dagli atti gli esecutori materiali di questo reato contestato, di questo omicidio, presunto omicidio. Adesso, al di là della qualificazione, se sia un omicidio comunque volontario o oltre le intenzioni, sì, sono gesti, purtroppo, sono vicende, purtroppo, sì, verificatasi per il collega, che non possono trovare attenuanti o scusanti. Ovviamente. Ceccarelli, la sua impressione è che il clima che si sta registrando intorno a questa vicenda, estremamente dolorosa per tutti, che però viene infiammata non solamente dal luogo, cioè non solamente da Alatri e dalle persone che circondavano, gli amici e i parenti di Emanuele, che sono, come dire, giustamente arrabbiati, senza naturalmente doversi lasciare andare a cose come quelle che sono avvenute, infiammato anche un po' a livello nazionale, tra social e via dicendo. Ha l'impressione che il clima che si sta respirando intorno a questa vicenda non sia sereno, immagino, per i legali. Ma sicuramente è un clima abbastanza caldo, però obiettivamente i legali coinvolti in questa vicenda sono abituati a lavorare con dei processi che scottano, quindi non ci facciamo sicuramente condizionare da questi episodi. È ovvio che ha una risonanza mediatica enorme. La tragedia è quella che è, purtroppo ci sono due genitori che non hanno un figlio in casa, sì, hanno visto uscire la sera e non l'hanno visto fare rientro, sì, e questo non altro da aggiungere, da commentare. Ci sarà ovviamente un processo, io sono sempre contrario a violenza, a rispondere con violenza, perché abbiamo una magistratura che ha il suo dovere di fare chiarezza nell'interesse sia degli imputati che delle parti offese, per carità, quindi dobbiamo rimetterci esclusivamente a quello che sarà il compito della magistratura. Allora, io la ringrazio, grazie a Toni Ceccarelli, che è l'ex legale a questo punto di Mario Castagnacci, una delle due persone fermate per l'omicidio di Emanuele davanti alla discoteca di Alatri. Come avete sentito, ci ha dato anche delle notizie diverse rispetto a quelle che sono uscite sui giornali in queste ore, a partire dal fatto che l'uomo appunto non era stato propriamente arrestato ma solamente fermato e rilasciato il giorno dopo. È un tema questo sul quale probabilmente bisognerà tornare, perché, come abbiamo già raccontato e abbiamo detto, avete sentito poco fa, il clima che si sta registrando intorno alla vicenda non è per nulla buono, e quindi invitiamo chi fosse all'ascolto alla calma anche nell'espressione verbale sui social network su queste vicende, anche perché vi ricordiamo, e l'abbiamo detto tre giorni prima, quando uscirono i primi dettagli di questa vicenda, subito si gridò all'albanese, al gruppo di albanesi che avrebbe aggredito questa persona e l'avrebbe uccisa. Poi si è scoperto che in realtà non era così. Come vedete, poi le verità che emergono dall'indagine, le verità processuali, ci dicono: stiamo calmi e attendiamo e vediamo quello che succede. Infine, una risposta ad un ascoltatore invece, che è Adriano da Taranto, che presumibilmente, riferendosi alla vicenda del TAP, del gasdotto, dice: quando si battono questi temi è duopo dare spazio a tutte le voci, non bisogna concedere spazio ad una sola campana. Caro Adriano, le consiglio di ascoltare Effetto Giorno quotidianamente. Come avrà sentito, abbiamo avuto il sindaco di Melendugno ieri e l'altro ieri, e oggi abbiamo ritenuto opportuno sentire il ministro dell'ambiente Galletti. E questo è quanto. Adesso ci fermiamo. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.